Everybody say mighty. EML 334 North Carolina waving a hand. Scorpio! CQ E23. Peccale! Chi vuoi che sia? L'unico superstite che è rimasto. Faccio superstite! Certo! Benvenuto, dai, buonasera! Ciao Tom! E allora? Mi stavo ritirando la roba! La stavo mettendo a posto, ho sentito che c'era una portante, va sul 10, ma l'avevo fatto in tempo a rispondere, dai! Andiamo a guardare qua se c'è qualcuno. Anche io mi devo fare la roba di casa, non è che posso stare a piedi. Mamma, che no, che gli ha dato quel culo. Certo, mi andiamo. L'interessante è che sempre ci sia qualcuno in cui ci crede, che ci crede in questa frequenza. Io se dall'ultimo resterò, poi quando non ci sarà più nessuno, pazienza. Fino all'ultimo io resto perché ci credo, mi è sempre piaciuto, sono da ragazzino, che da quando avevo 14 anni che c'ho il baracchino qui. Sì che si fa avanti, la vai andata a buio, non vedi nessuno, vedi che ti vendi tutto. Ma guarda che questo era successo una ventina di anni fa, c'era bloccato tutto, l'abbiamo ripristinato io, Natalino, Claudio, ci siamo messi d'accordo, ci siamo telefonati, io che spolveriamo le radio e chiamiamo un po' di gente, abbiamo telefonato un po' di gente, quasi tutti ce l'avevano ancora, e sono tutti rientrati poi, e si era formata una bella botta su 10, e poi sono scomparsi, piano piano scomparso uno, scomparso un altro, i due muri da su. Voi per carità. Purtroppo è così. È così che sta andando. Ma se che si può andare, andiamo. Poi vedremo più avanti. Vabbè. Infatti, finché la banca va lasciala andare, zia Ghisciolo. Allora, tanto. Una mezz'oretta già si può fare. Purtroppo. Ma infatti io ci sono andato a farmi quella cosa all'occhio, quella visita agli occhi. Sono andato da lotto a cercare Marchigia, ma l'ho trovato libero, senza pagare, senza nulla, così almeno sono più tranquillo, non sa che pescare, fa. Invece così l'ho trovato libero di fronte a Merella. Mi ho fatto una passeggiata e sono arrivato a Linamo, che era alle 8:15, alle 8:30 ci avevo la visita. E mi ha detto aspetti qua, poi l'altro è venuto, l'altro guardeggiato, no, non posso salire che c'è già la signora. E allora mi ha fatto salire e sono stato dalle 8:30 sino alle 9:30 sempre aspettando. Ne sono passati dopo di me, che sono arrivati dopo di me, una quindicina. E a me non mi chiamavano mai alla fine, ho detto, ascolti, ma io sono all'appuntamento alle 8:30, sono già alle 9:15. Aspetti che chiedo. Ho detto, sì, la chiamiamo subito. Ho fatto entrare, mi ha buttato la truppina. E dopo mi ha fatto la visita. E dopo un bel po', perché la truppina che lo sai che deve fare la sua reazione, là. Sì, io lo so, sì. Si batte un buro. Purtroppo. Ma ti hanno chiamato tardi, sua prima. Allora, siccome ci sono tanti dottori, non è uno solo, capito? Quelli che sono venuti dopo di me, con gli altri dottori sono entrati perché risultavano primi, perché praticamente gli altri dottori erano liberi. E invece con il mio dottore c'era un'altra signora prima di me. Oh, certo. Così sì, lì ho passato anch'io lì la visita. Poi l'ho passata, l'ultima volta che l'ho fatta con questa signora qua che mi ha controllato gli occhi, cioè perché c'avevo una piccola cosa e mi ha detto, dice, guardi, non ce l'ha più quelle cose lì nell'angolino, non ce l'ha più, si è sparito. E gli usci ha diritto, certo. Dice, cos'è? E adesso lo faccio sapere al medico di... l'oculista di Porto Torres. Infatti ci ho guardato una lì e ho chiesto l'appuntamento e ho detto, guardi che non ce l'ho più quell'affare lì, è sparito. Va bene, tutto a posto. E ho abbassato pure la visita giù a Porto Torres. Ma quello che viene praticamente quando c'è la glicemia alta, quello lì è praticamente un avviso che ti può venire di sacco della retina, però se tu abbassi la glicemia ti sparisce, si assorbe da solo. Me l'ha spiegato? Infatti mi è sparito, perché la glicemia ce l'ho sempre più di 130, 134 non mi arriva. Non bisogna andare più così forti. Ma infatti, perché poi anche a me l'hanno trovato oggi quello glaucoma lì, ma mi hanno detto basta che abbassa la glicemia si assorbe da solo. Come vista, cazzo, ho letto l'ultima lettera, era più piccola con tutti e due gli occhi, ma ecco, lei è un falco. Anche a me va detto, dice, a vedere ci vedo bene con questi, cioè con gli altri occhiali ci vedevo bene. Adesso ho cambiato occhiali e con chi ti vedo ancora più bene da lontano, e con quelli là stavo cominciando già a vedere una tappa scioccata, quindi oggi sono babbi. Ma io gli occhiali li uso solo per vedere da vicino, da lontano c'ho 13 decimi, cazzo, c'è due gli occhi, figurati. Mi ha detto, non è vede benissimo, c'ha questo piccolo glaucoma, ma si assorbe da solo, basta che lei abbassa un po' la glicemia, deve fare da bravo, mi ha detto, così mi ha detto. Infatti, me l'ha controllato a me con questo apparecchio, cazzo, che è a nuovo, me l'ha controllato lei, mi ha fatto la fotografia a lui, e mi era sparito, e non mi è giunto più. Un paio d'anni che non la faccio più la visita da loro, perché la dovrei fare invece. Adesso io domani mattina salgo su un via tempio al cupo per mia moglie e per me, perché mia moglie deve fare l'intervento per la cataratta a un occhio. È già una cosa veloce, dai, lo fanno in the hospital quello lì, a cataratta te la fanno in giornata, ti mandano via poi. Ma ti sei in gallogo però, non è nel lupo. Io l'avevo fatto una al policlinico e una all'ospedale, alla Stecca Bianca, mi pare, sì. Quelli che mi hanno detto del policlinico sono due dottori che non servono a nulla, non servono per fare una visita, devi fare lì, però mi hanno detto l'intervento hanno andato a farmi qui perché non sono bravi. Se c'è ancora quello anziano, non lo so se c'è quello alto anziano ancora c'è, non lo so, quello va andando uno l'hanno rovinato, ha dovuto rifare l'intervento alla Stecca Bianca, ha dovuto fare l'intervento, era arrivato più bene, stava ripigliato. Certo, chi ti era arrivato dice che sono, che non sono buoni. Non sei mai malati timidi, cosa ne sai tu? Purtroppo se uno li va bene dice che è bravo, se li va male dice che non serve a nulla, ma può succedere che uno è vero umano mesto, anche se siamo sempre persone, non è che devono sbagliare, ma può succedere. Infatti sto salendo su al cupo di via Tempio perché lì mi ha detto, dice che sarà tra poco che ci sarà qualcosa. ha detto di salire ogni giovedì, ogni giovedì, e così li porto impegnati in Vania per il coso, no, per il medico del diabete. Anche se privato va bene lo stesso, non è che devi andare per prezzo a ripilare, pure un privato ti puoi prendere che sia convenzionato. Diabetologo. Ci sono quelli privati. Non lo so, ma non ho detto loro di andare in un privato. Guarda, come dottor Fulvio, quello che c'era all'INAM, non venne. Io andavo da dottor Fulvio all'INAM. Ma bravo, mi diceva, come ti devo abitare? Sa salire sull'italiano, era dopo dopo. Magari, ma non per più avanti. No, ho avuto due infarti. Lui ha detto, era magomago, ragazzi, eppure ha avuto due infarti, dice che è dovuto allo stress, la gente che lo stressava, dottor lo chiamava alle 50, alla fine lui ha fatto a più. E si è avuto due infarti e se ne è dovuto andare. Si è avuto in pensione, se ne è dovuto andare. In pensione forzata, perché cosa sa, crepare. Sono venuti due infarti, lui mi dice, non è che io sia grosso, già mi vede come sono, che sono. È lo stress che mi fa venire questa cosa. Gli dati ne sono un bel, ne sono dei dottori, adesso li stanno dando, assegnando a aggiungere agli altri. Non basta che c'è gli Ivani e devi aggiungerli, non è che poni altri dottori, no. Non si sa più come farli funzionare. Ma quello era un cliente di mio padre, Fulvio, mi diceva che da mio padre andava da quando era bambino a portarli da lavoro. E praticamente conosceva mio padre, conosceva mia madre, conosceva tutti. E mi ha detto, come ti dirà giovedì? In Sassariso o in italiano? Allora, gli avete portato questo e quest'altro, ma ti lo dico in Sassariso. Certo, ma non che ti fa vedere. A me invece il coso mi va a vedere in sangue, mi va a vedere. Dito, molte parole capisco, ma molte no. Allora, che non me lo dizia, te lo facevo dire in italiano, lo facevo dire. Lui però parla di italiano, non ne sa. Chiamo il sassarese, lo sa che sono cosa sassarese, quindi. Però va detto ictus, tutti che si gosi, che porta diabete, infatti ictus, restringimento delle artiglie, infatti, lui lascia perdere. Dottor Fancello, ti va a ridare in sala a me, non vedi voci. A volte capivo, molte parole non riuscivo a capirle, però. E poi mi diceva che quando ce l'avevo, ho delle volte 134, 135, molto alta, è molto alta questa cosa. Bisogna scendere ancora un po', e ha detto, vabbè, vuol dire che ho mangio nuda, come farà, ha detto. Certo, ha detto, aveva detto il sassarese, ha detto. Ma detto, andiamo a così. Invece il mio mi ha detto, una volta ce l'avevo a 150, l'età alta, e mi ha detto, se non me, chissà quanta gente avrebbe messo la firma a averla così. Cioè, per un diabetico non è alta, mi ha detto, 150. C'è gente che supera 200, va di gran lunga, anche 250, 300. Se coso, quando ero con Pacifico, mi dice che arrivi sono a 120, e mi dice che era un beato. E per me ha detto, ma quanto bisogna averla? Ah, agito, 75, 70 lo dovrei avere. No, così è troppo basso. E allora cosa vuole che faccia? Ma poi la mattina a volte mi si abbassa molto, verso le 11. E a volte me la misura che sono contribuita, mi devo mangiare qualche cosa perché alle 11 mi cala di brutto. Mi cala, è una cosa pazzesca. Anche a 57 l'ho avuto. No, a me mi si è abbassata sino a 75 mi si è abbassata. ha svegliato camminando un pezzo di panico affrettato, ha giù fatto alzare subito, ha giù fatto alzare. Ci trovo io che andiamo male. Perché si carta, non ti l'avvisi, ma che abbiamo baciato mi attribuita. No, a me no, non mi fa, mi sento il capogiro, mi sento appena io. Appena il capogiro mi sento. Povero che c'è il capogiro, mangio qualcosa allora. Perché te non ti sei abbassata a livello delle parti attribuite? A me mi sei abbassata un bel, anche a 52. Allora io c'ho sempre un barattolo di miele, mi mangio un cucchiaio di miele, uno, due cucchiai di miele e mi passa. E basta all'impiccolo. No, io il massimo che mi sono abbassata è 75, non di più, però le cose che venne più abbassare, perché a quell'ora verso le 10 e mezza, 11, mangio un pezzo di pane, con una metà del panino con qualche cosa in mezzo, che si caccia con le bombe. Fai bene. E almeno però poi all'ora di pranzo, quando la misi di prima di pranzo, quando ce l'hai? Allora io la settimana scorsa prima di pranzo ce l'avevo a 97, ce l'avevo. Dopo pranzo verso le, avevo finito di mangiare a ore 3, misurata alle 5 e ce l'avevo 112, ce l'ha detto. E già va bene così. Così è giusto. Ma il sensore non l'ha messo. Ho capito. Ho detto il sensore, te l'hanno proposto. No, non me l'hanno proposto. Sono qua già medico, cara che me lo va via. Cancello. Chi si gira a futtia? Perché adesso lo stanno proponendo a tutti il sensore. Io ho avuto una brutta esperienza, però e non ne ho più voluto, perché praticamente ho provato questo sensore, me l'ha messo, sono venuto da casa, era d'estate, mi sono trovato tutta la maglietta zuppata di sangue e non me ne uscito a cura e mi è venuto tipo l'emorragia, non riuscivo mai a calmarla, ho detto ma quando va? Ho telefonato al centro di medico, gli ho detto ma non gliel'ha messo il cerotto? No, il cerotto non me l'ha messo. Ecco perché ci penso io adesso, dottore, ha sgridato, no, ma dottore non ne voglio più, mi metta di nuovo con le normali, non ne voglio più, mi sono spaventato. No, perché devi mettere il cerotto sopra, devi mettere. No, a me non me l'ha detto nessuno di gol. Poi se riesco a trovare un medico e cose, io da qui devo fare, rifare tutto da capo devo rifare. Se me lo propongo lo trovo. No. A me me l'hanno fatto provare loro, però dovevano mettere loro il cerotto, si sono dimenticati di metterlo. Capitati, mi ha detto che deve comprare in farmacia, quando lo metto il prossimo lo compra il in farmacia, però non me la brucia, invece me lo doveva mettere, come ha detto il dottore, lì gli doveva mettere il cerotto sopra. Non stanno in bocca nuda, non stanno in bocca, certo, ma da perché si vede in bocca questa cosa qua? Sì, in bocca premi e spara questo ago che c'è già dentro, ti dura 15 giorni. E poi col telefono, ti avvicini al telefono, ti misura la glicemia, senza stare a bucarti ogni volta, no, ti fa un buco e basta. Però il buco te lo fa più grande di quello degli aghetti che ti danno, te lo fa più grosso, capito? Ah no, preferisco rimani normale, bucarmi e buco. Poi ogni 15 giorni te lo devi sostituire, capito? Ti scrive che sta scadendo, dice che è scaduto, che la sostituire, tu vai, ti danno il tanto per tutto il mese, però se tu sbagli magari, perché non è, sì, non è semplicissimo dare a fare, bisogna avere un po' di manualità per farlo, perché devi dare il corpo secco, tac, e ti si infila. No. Quindi stai così tranquilli e bucati una cucciaraggetta e boh. Ah beh, mi si è rotta con la pennina che ti buca il dito per prendere il sangue. E mi sto bucando con gli aghi perché adesso non ne ho trovato, sono andato in farmacetto che non ne vedo. Sì, tutto il kit completo devi prendere, ecco cosa è. No, lo saranno. Allora vado al centro diabetico e dico grazie alla macchietta, sei fasciata, e me la faccio dare nuova, perché cioè questo qua tu non è che conosci bene la pressione che devi fare, a volte c'è tra gruppi di vasi vasi. No, io è passato il giorno, infatti che mi si è rotto il pungirito, mi si è rotto. Ora stavo fando gli aghi così, che non è giusto. Fate lo giamba lì, bisogna fare buona macchinetta da buio. E perché mi è caduta in terra la verità e ne usciva sempre la parte di davanti, quando tu andavi a caricarlo, partiva a raso, la parte di davanti con la gulla, dove si mette l'acqua. Fine, poi se la giura la panna che dopo sul sangue questa cosa che esce ne entra, poi se devi sostituire gli aghi non è che ci puoi mettere un pezzo di nastro, perché ogni volta devi stare a cambiare l'ago e come fa? E quando vado dal medico glielo dici, guardi che mi si è rotto il pungirito e non ne ho, ne sto usando gli aghi, sto usando così, cioè non si può avere uno. Ho tutto il kit completo. A volte sbagli la pressione che devi fare, o no, pugli il dito e non esce il sangue, oppure lo fai troppo dentro, come darà troppa pressione, cazzo di mazzima i baduini. Io l'ho messo a 5, l'ho messo. A 5 mi buca benissimo, mi buca. Ma poi né mare né nuda. Ma io la pressione la posso regolare. Lo fate io. No, io l'ho messo a 5, mi buca, faccio pressione sul dito, mi esce il sangue, mi esce. È fatto così. Anche quelli, quando me lo misuravano loro, ce l'avevano a 5, ce l'avevano. E bucava benissimo e faceva pressione sul dito. Ma tu gli hai il pugilito del cambio di volta? No. Ho dopo 4-5 volte e poi lo cambio. Si lo sa niente, lui non vogliono. Devi cambiare ogni volta perché dice che rilascia questa polvere di ferro dopo una volta che lo buchi, che ti si può scegliere nel sangue. Secondo Eddie no, ti bastano 25. Ah? Dovrà giocare. Una volta la ghetta, andiamo a fare 2 volte alla settimana, a pranzo, e poi lo devo fare prima di pranzo e dopo pranzo. Poi la prossima settimana lo devo fare prima di cena e dopo cena. Così sto facendo, 4 al mese le devo adoperare. A me me ne danno 100. Già da te, a me me ne danno 25, ma 3 mesi. Perché a me me ne danno sempre pacchi da 25. Me ne danno 4. Io vado conto, ma 3 mesi e sono 4-8 alla settimana, al mese. Ma tu ne fai di meno di insulina, io ne faccio 4 al giorno, capito? Quindi me ne servono di più, è normale. No, io insulina non mi porto nulla, hai compreso? Sono solo le pastiglie e basta. Ah, ecco, anche io ero così prima, all'inizio ero così anch'io, dopo piano piano va intatto. Io sono dal 2011 così, dal 2011 sono adesso, fino al 2025, che prendo le pastiglie. Ah, io ti auguro che non abbia mai bisogno di fare l'insulina con la sinistra, però ovviamente è bastardo, il corpo aumenta, bisogna tenerlo sotto controllo, quindi come è successo a me, vabbè, io un po' me ne sono fregato, all'inizio ero proprio, manco una caramella mangiavo, niente, nulla, ero proprio tassativo, mangiavo un mezzo panino svuotato alla mollica, niente pasta, una fettina, un'insalata, una frutta, una mela possibilmente, perché quella che fa meno male, e basta. Adesso un po' mi sono stufato di stare così, perché mi sento debole, capito? Ma se tu per a me fa succhi, perché io la mattina faccio colazione con il tè e quattro fette biscottate, qualche volta zinco, poi faccio merenda verso 10:30, 11, a metà del panino, come mi hanno stabilito le cose per la dieta. Poi a pranzo mangio 80 grammi di pasta, che si butta qualche pocherito in più, o fettina o congo o altro, quello che c'è mangio di secondo. Qualche volta la pasta solo mangio, perché giusto. E poi il giovedì mi faccio il controllo con i tuoi. Io prima non le mangio tutta la settimana, a volte manco la domenica, a volte la domenica faccio qualche cosa, faccio una viola, faccio qualche cosa così, però il primo in tutta la settimana non le mangio, tranne qualche volta che ho fatto quel freddo la sera e mi sono fatto una minestrina di dadi magari per scaldarmi un po' quando c'era troppo freddo. No, io mi sto contenendo così e non c'ho sempre, si può dire che è normale, la dottoressa che ho io mi ha detto, diciamo, se va a continuare così va benissimo, va, è tranquillo, tanto la glicemia, se gli si rimane così va benissimo. Beh, lo credo, se la tiene 120, 90, 120, va bene, sì. Io all'inizio c'erano 85, 90, sempre così ce l'avevo anch'io. Poi mi sono stufato di fare queste diete proprio ristrette, perché alla fine poi siamo fatti in garriusse, viene il Natale, tutti mangiano i porcetti, altri pasti, riso, quindi, e tu devi stare a mangiare. Guarda che l'agnello, il porcetto lo mangio anch'io, mi. Se gridino romagno, romagno è un buco romagno, altro che certa, come ne devo stare da mall'altri io a mangiarmi, ah, e me ne sciani da mezzo, qualche volta ho rotto qualche pezzo di coniglio, qualche volta fettine di maiale, che ma che ti credi, sto cosenza io? Panettone, a me mi piace il panettone, quello classico, quello di frutti carniti, adesso ci sono i panettoni che sono in offerta, però non li posso mangiare, mi piace da morire i panettoni con i frutti carniti e l'uva passa, poi. Io devo sapere che fanno andare, ne via, sino anche da passata andare via di panettone, con i frutti carniti. Ma perché se l'ho mangiato? Non me ne ha fatti la nuda, no? E lo cazzavo. Per la glicemia non ce l'avevo alta. È sempre quel livello lì arriva. Sì, ma te ne mangiavi un pezzarito. Io quando lo mangio ne mangio 2 vetti. E vedi massiccio, mi piace troppo. Sono goloso io. Non sono mai stato io goloso così di dolce. Adesso sono goloso proprio. A chi non li posso mangiare è proibito, adesso mi viene di più la voglia di mangiare pasta, di mangiare questo, di mangiare là. E mi ha detto, che cosa mi ha detto l'oculista, mi ha detto, facciala bravo, che basta che si abbassa la glicemia e si assorbe questo blocco, ma è piccolino, però prima non c'era, adesso c'è. No, a me ma era d'estate quando me l'hanno fatto, in giugno ce l'avevo. Poi in agosto, a fine agosto me l'hanno controllato, non ce l'avevo più. Ah, detto, è meglio così, ma così mi è andato. Ci dovevo mezzare bene. Cioè, non ce l'ho più di tanto io la glicemia. arrivare, il massimo che posso arrivare 134, 135, non di più. Vabbè, non è alta così, così va bene. Per un diabetico 135 è più che buona, stiamo scherzando. Tu contra che l'altro giorno eravamo in una live, stavo ascoltando queste ragazze che stavano parlando, e una di queste ha detto mi sento male, ed era di Sassari questa. E lui ha detto cosa c'hai? C'ho la glicemia alta. Alta quanto? Misuratela. La misurata 450 mi pare che era. Ma stai scherzando, ma sei andata dalla diabetologa? Sì, mi ha dato le pastiglie, non ti bastano più, le tue, questa ti deve cambiare terapia, chiamala subito. Dice che era due giorni così che aveva la testa che gli girava, non capiva quello che doveva fare. Questo è il 400, è un bel mio. 400, c'è un documentato di Muccia Bui. No, mai ho avuto, al massimo la prima volta che mi hanno trovato della via, è 255 della via. Poi mi ha dato subito le pastiglie, mi ha ordinato. Poi mi ha fatto la prova del panino, con il prosciutto mi ha fatto va. E mi sa stata, io l'ho trovata subito, mi ha dato le pastiglie e mi si è abbassata subito. Ma sono andato sempre così, sono andato. Ma tu la curva a carico l'hai fatta, quella che dura 4 ore, che ti fanno ingerire il glucosio e poi ti fanno andare a fare colazione, ogni mezz'ora ti misurano la glicemia. Sì, l'ha già fatta, me l'ha fatto fare, dice. Certo, perché mi ha fatto vedere il suo liquido bianco, a caridare, e rimane il gastrucci duro. Ah, a me il glucosio, beh, mi ha dato il glucosio. All'inizio ti piace fare Coca-Cola, va da buio, ti nausea brutto, ti viene a vomitare. No, questa roba bianca mi ha fatto bene. E poi mi ha misurato, allora, poi mi ha fatto andare a mangiare un giubbanino con un prosciutto. A dopo di 2 ore e mezzo l'ho gambato e mi ha misurato. Ma non ce l'avevo molto alto. No, l'ho ciappato, 850 me l'ha ciappato. No, a me mi ha fatto fare colazione al bar. Mi ha detto faccia colazione, spende cappuccino e una pasta. Vediamo un pochettino. Dopo 2 ore me l'hanno misurata ed era alta. E quindi mi ha subito dato l'insulina da fare. Quando mi hanno detto che devo fare l'insulina, la giubilia da mani, mamma mia, ho detto cazzo, anche io schiavo di questa cosa solo. Già c'era mia madre così. No, io no, solo con le pastiglie. Ah, va, mi ha aggiunto questa qua, fa... l'ho fatto altro che TB, fanno di 4 ore, 20 minuti, 4 ore, devo andare in bagno, un bel posto. Anche se faccio il bisciamo un bel. Io ho visto questa qua, ho fatto la visita con me, tutto quanto, abbiamo finito. Io sono andato al bar a fare colazione dopo, un giorno. Questa pigliata ci ha pigliato 3 passi. Cappuccino, ha detto signore, la si lamenta che mi è alta la glicemia. Si stava lamentando che c'era sempre alta, con gli altri pazienti che stavano aspettando. Se la si lamenta, ehi vabbè, una volta, però adesso che ho fatto la visita lo posso fare. Ma non è che tu devi buttare il tuo, ti sei fruttato e tu mattessi. Infatti, no, io... quando vado a fare colazione, che ci ho fatto le analisi, se vado a fare colazione al bar prendo il sale con un cornetto vuoto, me lo prendo. E mi va bene quello lì. Ah, io dopo che faccio le analisi del sangue, per ripristinarmi mangio una brigiola con lo cappuccino. Me la mangio, una frittella con la crema me la mangio, dico la verità. Ma no, io faccio di quella maniera giusta, fanno averla un po' guasta, invece è normale. Sì, ma tu conta che se tu la segui sempre la dieta e ce l'hai sempre bassa, se una volta mangi un po' di più non ti sale più di tanto, tu hai optato quello. Se invece mi dai la saltata in picco, è normale. Non ti sale più di tanto, ti sale magari 150 e poi dopo prendi le pastiglie di nuovo e ti si rimette a posto, capito? Però gli sbalzi, questi sbalzi qua sono quelli che fanno peggio, da bassa ad alta, sono quelli, questi sbalzi di coso, glicemici si chiama, sbalzi glicemici, fanno male, danno problemi agli organi. Non so che fanno, però se ne va, sono tranquillo, perché non farò mai nulla così. Oggi c'ho me, attacca i carciuffi, quindi sta tranquillo, da cose, se oggi ad andare in gruppo, sta tranquillo, non va a mangiare, sono più tranquillo il gioco. Ma se oggi ti mangia scurezza a tossi. L'unica cosa che mi fa è la pastiglia che mi fa andare, l'hanno portato che mi fa mandare in bagno subito. Tu cosa prendi? Metformina? Anche quella prendo. Io ho la pastiglia, la mattina prendo prima la pastiglia per il cuore, no, la metformina e la e quell'altra panda a coso in bagno e poi mi prendo quella del cuore e quella per la circolazione del sangue. Vabbè, il dottore me l'ha detto, deve bere moltissimo, di modo che quello che si mette in corpo, tipo la metformina, tutte le pastiglie, le cose le butta fuori, capito? Perché sennò se ne rimangono le reni, le rovina il rino. No, infatti, è il paese che mi l'ha dato a me, per buttare le pagine del mio portato, che è il 10 minuti, un quarto d'ora e sono entrato in bagno. Infatti, già ne sono ancora, che bevo un po' d'acqua, mi tocca entrare a trovare e entrare in bagno. I sassarisi di Giagusino, quando uno va via da Zetti, gli dice vai, pisce mi. Infatti è così. E quando vado fuori a mangiare coso, che bevo, dopo di 15 minuti devo entrare in bagno per forza, devo entrare. Ecco cos'è, già ho risito. Perché a una certa età anche la prostata se ne va via, magari se muovi come ti macchini. Quando c'hai molte menzioni di pipì è perché la prostata si è infiammata, roba del genere. Prima di andare in questa pastiglia andavo a regolare, bevevo parecchio, poi andavo a regolare in bagno. Quando mi veniva da andare in bagno andavo. E insomma ha andato di far pastiglia, mi ha dato. Infatti che non ho cominciato a pesare, ma ho cominciato a far entrare in bagno subito. Ha detto, cazzo, vi ho detto, ma non sapevo cosa darmi lì. Andavo a regolare in bagno. Allora perché non me l'ha detto? Se gliel'ho detto, è lei che non ha sentito. Cazzo, l'ha sbrigato, dai. No, a me mi ha detto che avevo l'urina densa. Ma dice, ma bevi, certo che bevo, bevi con 4 litri di acqua. E dice, ma deve bere di più, vuol dire, perché l'urina è molto densa la sua. No, io invece, nelle ultime che avevo fatto del coso, delle analisi, abbaidato, dopo non so come ha dato questa pastiglia, ma ci ha andato tutto, ma ci ha andato. Certo, detto, tutto con me devo pigliare 3 volte al giorno, devo pigliare. Certo, ha detto, bobo, e se manda in bere. La buia ha messo fulmina, fagli bere una cosa, fagli bere 50 cose. Vai a vedere, metti su Google effetti collaterali della metformina, ti giudici e ti fai, invece vieni di un'ora, di arrea, di tutto e di più. Sì, un po' di voi, perché a volte mi capiteggia andare in bagno a diarrea, però no, sono tranquillo, sto bene. Quello provoca, se tu guardi il bugiardino che c'è dentro la scatola, c'è scritto che provoca queste cose. Oppure vai su internet e guardi gli effetti collaterali della metformina, non li bigli più, anche quasi male un po' di cose. Prima la prendevo con insieme a questa parte di Agiara, c'è la metropolmia, gli degli d'altro, e sto prendendo questo regolare dei cose e mi passava. Certo, adesso da Brio, mi ha guardato chissà, ha ciambato tutto. Come si chiamava? Xigno? Era una partita grande gialla, era. E una cattura mi fa via un mese, mi fa via. Io per dire, metto il fulmine, ne prendo mezza pastiglia. No, a me ne ha segnato tre, da 8.50, tre al giorno. Ma da mattina, a pranzo e cena. Ma io ne prendo mezza. Prendo mezza pastiglia e poi la mattina prendo il tia perché soffrivo di... Ma è una questione di ansia, di tachicardia, e mi hanno dato questo triate che devo prendere ogni mattina per calmare i bacci cardiaci. No, a me mi ha detto che quei passaggi che prendo ci avevo troppo accelerati i battiti. Allora mi ha dato da 2.5 e mi sono regolati tutto quanto dei battiti. E più mi ha dato quest'altra pastiglia per la globalizzazione del sangue. E per la perché si coagula, allora, per renderlo più liquido. Però se ti fa una ferita, se ad esempio va di sangue, non riesci a calmarla per quanto c'è per quelle pastiglie. Sì, no, ma sono tranquillo. Stanno per quelli che vengono, che cosa per rimuovere tutti i canti? Che è l'acqua per tutti i gomiti, per imbastire, per abbigliare le luci. Dice che c'è, dopo la ricerca fatta, c'è il modo di far passare il diabete, che proprio ti prende alla base, non è, dice le pastiglie e le iniezioni servono solo per tenerlo a bada, invece questo tipo di cose che hanno scoperto te lo fa proprio passare, non ti fa più venire la glicemia alta. Sì, in internet, su Facebook l'ho letto, che c'è questa pastiglia qua, veniva, la confezione veniva a 39,90 euro, e ti faceva passare tutto quanto, ti faceva passare, e mi pare due pastiglie al giorno per 7 giorni, e ti va di abbassare tutto. E si metteva a posto tutto quanto. Allora c'era questa signora che aveva un diabete grave che parla con me su TikTok e ha detto che lei è andata all'estero, ha fatto questo intervento e il diabete non ne ha più, l'hanno praticamente fatto passare completamente, non prende più pastiglie, nulla, come se non avesse mai avuto nulla. Sì, a Daena, certo, so che non te l'ha pagato per l'intervento. Non lo so però, che cosa gli abbiamo fatto sul pancreas, non so cosa gli abbiamo fatto, se le abbiano ripristinato la punzione, se gli hanno sostituito il pancreas, non lo so. Però ha detto che da quando lì ha fatto questo intervento sta benissimo, non ha più avuto glicemie alte, le misure ogni tanto ma ce l'ha sempre in bassa, anche dopo mangiato, dice non li sale mai. E ha risolto così, dice se tu vuoi fatto passare vai lì, e ha detto a questo qua, perché c'era uno che vive in tenda, perché la Mudeli ce l'ha mandato da casa, è 3 anni che vive nel bosco dentro una tenda con 2 cani, una gallina e 2 gatti, e vive in tenda, l'ombrello, in mezzo al bosco, non può mettere né roulotte né nulla, perché non si può mettere nulla nel bosco, perché praticamente glielo impedisce la forestale. E c'ha questa tenda, vive in questa tenda al freddo, poveraccio, c'è una stufetta, ma non basta, quando c'è troppo freddo lì in montagna. Certo, vive dentro il bosco, in montagna, e quando fa neve? E quando piove fa neve, il poveraccio, sempre ha dolori, c'ha 1000 problemi, si deve operare, poi il dottore c'ha una vena praticamente che deve essere operato, e il dottore gli ha detto, ascolti, io lo opero solo quando lei avrà una casa, perché se io la opero, poi la degenza dove la fa? Dentro la tenda, così si prende qualche infezione, se la prendono con me, no, assolutamente, cioè deve trovare una casa. siccome lui i cani non li vuole mollare, non è lì, non è in continente, non ti affittano a casa se c'è animali, scrivono sempre senza animali, e lui non riesce a trovare uno che gli voglia dare una casa. Lui è anche in grado di pagare l'affitto, perché ci sono gli assistenti sociali che gli pagano l'affitto, però se non la trova come fa a fare? Lui vuole una casa col giardino per avere gli animali, capito? Non c'è gli animali. Era moglie della cultura. Sì, e l'ha anche denunciato, l'ha accusato che la picchiava, che la maltrattava, quando ci ha fatto un graffio, che allora se l'ha denunciato, e praticamente lui si deve anche scontare degli anni, adesso non si sa se è messo in appello, non ha mai fatto una cosa del genere. L'unico problema che c'era è che quando lui sgridava i figli perché facevano qualcosa, la moglie si metteva in mezzo e difendeva i figli, quindi i figli si sono messi contro di lui perché vedevano che la madre li difendeva, si sono messi tutti e tre scoccolizzati, e praticamente la mamma ha fatto questa denuncia, si è fatto un graffio e ha detto che l'aveva picchiata, che l'aveva fatta, gli hanno dato 4 anni di reclusione, però adesso si è appellato, bisogna vedere se gli va bene, so se la deve andare in galera pure. Ui. Ma che fa di a campare senza peppino, senza nulla? Dopo avrebbe rubato 30.000 euro dalla banca la moglie pure, perché c'era il conto contestato, la moglie se ne ha tolto 30.000 euro e si rabbiglia dietro. Cazzo, ladra pure lui, da a fare dai. Cazzo, non ti vedi, non ti vedi. Ha messo in mutande proprio, poveraccio. E lui campa, c'ha praticamente questo sussidio che gli danno, quello che è tipo reddito di cittadinanza e basta, sulle 800 euro c'ha. E praticamente mangia poco, lo dà più ai cani e agli animali da mangiare che lui, pensa più agli animali che a lui. Lui gli ha detto che di mangiare non ne frega nulla, che se muore, ha detto che praticamente i cani, ha già parlato con un amico suo che c'ha un tipo un'accoglienza per cani randagi e cose del genere, se no se li prende lui, capito? Non rimangono senza padrone. L'abita che devi fare, E lui ha detto che se non operano questa vena si sta stringendo sempre di più, e la vena femorale, lo devono operare, la vena femorale ci può rimanere da un momento all'altro, perché se non passa il sangue si può scoppiare, viene anche morraglia e rimane. Il dottore gliel'ha detto, lì io mi meraviglio che ancora ha campato, perché cioè, con questo problema qua, se non lo fa subito l'operazione, dice lei si deve andare da fare a trovare casa. Sì, ma sto chiedendo a tutti, l'ho messo su internet, ha messo altre cose su internet che sta cercando casa, naturalmente pagando l'affitto, però con i cani non gliela dà nessuno. Ma con una camera in campagna di luce. Allora aspetta un attimino, lui da quella zona non si può muovere, deve stare in quella città, perché lui dal tribunale praticamente gli ha dato l'obbligo di residenza e quindi non può muoversi, non si può muovere da quella città. Qualcuno gliela voleva anche dare la casa, ha detto questo qui che c'era una casa in campagna che non usava più, che bastava restaurarla un po', ma era poca roba da fare, e gliel'avrebbe fatto lui a spese sue, però lui non si può muovere, cioè, come faccio a muovermi da qua? Non posso. Il tribunale mi ha imposto di stare qua, non posso muovermi da questa città. L'altro giorno ho letto, io lo seguivo ogni sera, no? Poi adesso si è scocciato perché si è mezzo arreso, ha detto tanto non parlano, tutti promettono e poi non fanno nulla, si è arreso. Però c'è questa ragazza che è in contatto con lui, io ogni tanto mi sento con lì e mi ha detto guarda se ne sta andando, c'ha sempre dolori, furti, il freddo, tutto quanto, per carità, non so se ce la fa resistere, tutti i giorni lo sento, però sta sempre più male. Sto facendo dei bigosi un brutto, non muoviamo bene, dai. chissà che fine faremo noi. Speriamo che ci sia un calma, che la moglie la faccia pagare, perché ha detto lui, se è sincero quello che dice, ha detto che lui non ha usato mai violenza contro la moglie. L'unica cosa che si incazzava è perché la moglie, quando lui correggeva i figli, li appoggiava, gli diceva ma aspettila, se lui gli sequestrava il telefono perché era andato mai a scuola, roba del genere. La moglie si metteva contro di lui, capito? Non è che lo appoggiava, e quello è sbagliato, perché i figli vedono, vanno sempre dalla parte che ti fa parte a te, capito? È normale. E quindi dice, i bisticci erano per quello, ma non perché io con mia moglie andavo d'accordissimo, ci amavamo proprio, solo che lì sbagliava lì, mi faceva incazzare e a volte la prendeva a voce e cose, però non l'ho mai toccato. Poi ha cominciato a girarsi, fa, e tra mandato anche tu paesi. Beh, date vedersi a Luna. Poi se n'è andata con un altro, capito? Se n'è andata con un altro uomo. Quindi stava cercando il pretesto per andarsene con un altro uomo. E quindi praticamente l'ha denunciato, per più volte ha fatto andare i carabinieri a casa, i carabinieri hanno detto che hanno trovato tutto in ordine, al processo hanno detto, lui quando andavamo che ci chiamava trovavamo tutto in ordine, uno che si misticcia, che picchia la moglie, che fa, trovi le sedie in terra, tutto caldo, un casino, capito? Dice lì era sempre tutto in ordine, andavamo lì e non c'era mai nulla. Dice noi possiamo testimoniare che il Signore non ha mai fatto di queste cose, perché se no si sarebbe visto, ci sarebbero stati segni. Infatti, l'hanno condannato così. I giudici non hanno dato verità, ma come i carabinieri, capito? I carabinieri hanno detto la verità, hanno detto che praticamente lui non ha osato mai di picchiarlo, perché dice si sarebbe visto. I figli lo stesso, per ogni cosa, chiamavano i carabinieri, se lui gli sequestrava il telefono, gli prendeva la punizione, cosa, chiamavano i carabinieri, dicevano, gli dicevano che gli stava picchiando e cose. È normale che poi si fette la bruciata, no? Infatti, è andato a finire in tu, certo. Se gli abbia detto che cura. No, dentro l'hanno messo, l'hanno condannato, ma lui è sempre fuori. Adesso lui deve fare l'appello, si deve appellare, se gli va bene. Allora, già aveva avuto la denuncia col vicino di casa, perché praticamente lui deve essere un po' di quelli un po', non risusi, ma chi passa la prima, vabbè. E l'aveva detto cosa per i cani che abbaiavano, questo e quell'altro, bumba, e lì, vabbè, ha fatto una gazzata, mi pare che ha pigliato la roccola, mi si chiede con la roccola, isso. Però questo l'ha denunciato e lì l'hanno assolto perché sicuramente non c'erano prove, eccetera eccetera, l'hanno assolto lì. Però adesso c'è il processo, perché c'ha questi 4 anni da fare, perché per maltrattamenti in famiglia, non so cosa, hanno dato tutte queste cose. Vabbè, già, io ti devo lasciare, sono già quasi rotto. Che mi vedo i bacilli. Andiamo, vai, andiamo. Beh, ci risentiamo alle prossime, ok? Ciao, già, fammi bene. E anche agli ascoltori. Ok, alla prossima. Ciao, Tore, ciao. Vai a farci i gatti, vai. E non ti prendere anche la cocaina. E così, io da me voglio che sia un po' alluvionato. Ciao, buonanotte. Buonanotte.